una lettera agli italiani. È sempre piacevole ricevere una lettera, soprattutto se questa è stata scritta da una persona cara che amiamo. La Bibbia è stata definita una lettera d'amore di Dio per l'umanità, e questo è vero. Perché Dio ha ispirato degli uomini per scrivere ciò che egli è e ciò che egli pensa. E il Nuovo Testamento, scritto circa 2000 anni fa, che è composto specialmente di vere e proprie lettere, scritte da coloro che avevano conosciuto Gesù e vissuto con lui. Anche se l'Apostolo Paolo non visse con Gesù, ebbe la grazia di vederlo e di ricevere da lui delle rivelazioni in modo diretto. Questa è la testimonianza che rese nella lettera scritta ai Galati. Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo, che è stato da me annunziato, non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. Galati 1.1.1.12. Chi conosce il Nuovo Testamento sa che Paolo scrisse almeno 13 lettere a chiese e a persone, e in queste lettere espose sempre il Vangelo, cioè la buona notizia, di Gesù Cristo. Quello che fa piacere agli italiani è che l'Apostolo Paolo scrisse una lettera proprio a loro, cioè ai credenti che abitavano a Roma. Poiché la città di Roma, secondo il cattolicesimo romano, è la città più importante del mondo dal punto di vista spirituale, perché ci è la città del Vaticano, dove risiede il Papa, che sempre, secondo il cattolicesimo romano, sarebbe il capo della cristianità, è importante confrontare la fede che professa il romanesimo con il pensiero dell'Apostolo Paolo. Per brevità prenderemo solo in esame alcune verità che si trovano all'inizio della lettera, verità dalla quale non è possibile scostarsi. Così Paolo si presenta ai lettori di Roma. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo. Notiamo che Paolo, presentandosi a persone che non lo conoscevano, si autodefinisce un servo. In greco doulos, che ha il significato di schiavo. Dunque, il grande apostolo Paolo inizia la sua lettera presentandosi senza alcun titolo. Anzi, preso alla lettera, il termine schiavo ha il sottotono negativo e dispregiativo, anche se in senso figurato perde in parte l'aspetto violento. Nel cattolicesimo romano, invece, coloro che si definiscono apostoli di Cristo sono monsignori, sua santità, reverendo. È vero che affermano di presentarsi come servi, ma hanno tutto all'infuori di questo. Non si bacia la mano a un servo, né tantomeno ci si inchina davanti a lui. Paolo non ha mai avuto inchini né baciamani, come del resto nessun apostolo, e neppure gli angeli. Nella sua lettera agli italiani l'apostolo Paolo continua dicendo: «Appartato per l'Evangelo di Dio, come egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture». La missione degli apostoli era quella di predicare l'Evangelo e non di officiare delle cerimonie liturgiche. E il loro Vangelo era basato sulle scritture e non sulla tradizione, benché i giudei avessero alcune migliaia di anni di storia. In effetti, perché il loro messaggio fosse accettato, gli apostoli citavano del continuo le scritture ispirate da Dio, e l'apostolo Paolo, nella sola lettera ai Romani, cita almeno 70 volte l'Antico Testamento. Nessuna citazione di dotti giudei, eppure, ancora oggi, studiosi delle scritture si rifanno a ciò che ha detto qualcuno che loro stessi hanno dichiarato autorevole. Quando verrà il momento per gli italiani di dare valore alle scritture più di ogni autorità umana? Poiché al tempo degli apostoli i Vangeli, cioè le buone notizie, erano molte, Paolo specifica: appartato per l'Evangelo di Dio riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza, secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dai morti, Gesù Cristo nostro Signore. Dunque, la bella notizia che Paolo presentava era riferita al Figlio di Dio, che lui stesso poi specifica, cioè Gesù Cristo. Dunque, il soggetto del Vangelo di Paolo e degli apostoli non erano le Madonne, i Santi, le messe o le novene, ma da sempre e per sempre era Cristo, Gesù. Questa semplice realtà è stata persa soprattutto nella coscienza degli italiani, i quali sono presi ad osservare ogni mese feste in onore a uomini e a Maria, feste che sono puramente pagane, idolatre. Inoltre, Il Gesù che Paolo predicava agli italiani lo ha definito nostro Signore. Il termine Signore riferito a Gesù non ha un significato di rispetto, ma Paolo riconosceva con questo termine che Cristo Gesù era il padrone della loro vita, era l'unico al quale bisognava dare onore e gloria, era l'unico a quale bisognava ubbidire ciecamente. In Italia, come del resto in altri posti, purtroppo, è il cattolicesimo romano che pretende una assoluta ubbidienza, anche contro la coscienza individuale, pretesa questa che deriva solo dal diavolo. Infatti, il Dio Trino a coloro che pongono fede in Lui chiede di vivere con la buona coscienza purificata dalla parola di Dio. Quando Paolo scrisse agli italiani di essere trasformati mediante la mente, Romani 12:1-3, voleva intendere questo. L'Apostolo Paolo fa cenno alla resurrezione di Cristo, e questo perché è stato un evento unico che rende unico il messaggio del Vangelo. Purtroppo agli italiani viene insegnato che Maria, la madre di Gesù, è stata assunta in cielo con il suo corpo immacolato. Se così fosse stato l'Apostolo Paolo, e gli altri apostoli lo avrebbero detto, ma non troviamo in tutta la Scrittura un solo minimo cenno che Maria sia stata assunta in cielo con il corpo, e soprattutto che Maria fosse stata concepita senza peccato. Gli italiani ormai non fanno più caso a questo enorme errore, perché sentendone parlare, quasi ogni giorno per loro è diventata una verità. Così continua l'Apostolo Paolo la sua introduzione alla sua lettera agli italiani: per mezzo di Cristo noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato, per l'ubbidienza di fede fra tutte le genti, per amore del suo nome, fra le quali anche voi siete stati chiamati da Gesù Cristo. A voi tutti che siete in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Gli apostoli erano coscienti di essere stati mandati per indurre la gente a porre fede in Cristo e non in una religione. Gli italiani sono fieri della loro religione, come del resto ogni popolo, sono fieri di ritenersi dei cristiani, ma pochissimi di loro hanno preso l'impegno di verificare se sono veramente ciò che ritengono di essere. Esprimere una fede definita cristiana non è sufficiente perché essa sia tale, e per di più che sia giusta. Anche gli induisti professano la reincarnazione, senza che per questo essa sia vera. Gli italiani hanno ricevuto una lettera da un vero cristiano e dovrebbero verificare se in quella lettera trovano gli elementi di fede che professano. Dove è scritto che tra gli apostoli vi era un papa? Dove è scritto che Pietro era il primo papa? Dove è scritto che si devono fare preghiere per i morti? Dove è scritto che gli apostoli erano sacerdoti, cioè intermediari tra Dio e gli uomini? Dove è scritto che dobbiamo confessare i peccati al sacerdote o ai vescovi? Dove è scritto che la messa è il sacrificio e la ripetizione giornaliera del sacrificio di Cristo, nella lettera agli italiani? In essa e in nessuna parte della Bibbia non ve ne è proprio alcuna traccia. Il privilegio degli italiani di aver ricevuto una lettera dall'Apostolo Paolo si trasforma in condanna se essi non si prendono l'impegno di verificare la fede che professano. Notiamo che nella lettera indirizzata agli italiani, Paolo menziona i santi. E è stupefacente che proprio gli italiani siano così orgogliosi di avere tanti santi costituiti dal cattolicesimo quando questi, secondo Paolo, non erano altro che i credenti in Cristo di Roma. Il cattolicesimo romano ha completamente stravolto un termine e lo ha strumentalizzato a suo piacimento. Se gli italiani hanno ricevuto una lettera da Dio indirizzata ai santi, com'è possibile che così ingenuamente, per usare un termine benigno, pensino a persone morte con dei meriti? Gli italiani non sono in grado di verificare nella lettera scritta loro se i santi sono dei morti? Non chiederà Dio conto agli italiani della loro cocciutaggine? Infine, Paolo, nell'introduzione della lettera indirizzata ai santi italiani, testimonia: «Ora, fratelli, io non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di venire da voi per avere qualche frutto fra voi come ne ho avuto fra le altre genti, ma finora ne sono stato impedito. Io sono debitore ai greci e ai barbari, ai savi e agli ignoranti. Così, quanto a me, Sono pronto ad evangelizzare anche voi che siete in Roma. Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. Paolo aveva il peso di evangelizzare gli italiani, peso questo condiviso da tutti quelli che hanno posto fede in Cristo. Per quanto il popolo italiano si definisca cristiano, purtroppo, se confrontiamo la sua religiosità con la parola di Dio, dobbiamo concludere che non è così. Il popolo italiano non è cristiano, anche se grazie a Dio ci sono dei cristiani in mezzo a questa nazione. Non è cristiano perché Cristo non è la sua autorità, ma una religione. Non è cristiano perché la maggioranza di loro sono ladri, bugiardi, adulteri. Non è cristiano perché le galere sono piene di coloro che sono definiti cristiani. Ecco perché l'Apostolo Paolo non si vergognava dell'Evangelo, perché esso ha il potere di trasformare le persone e farle diventare sante su questa terra. Com'è possibile questo miracolo? Paolo lo dice in 5 parole: il giusto vivrà per fede. Ecco il grande messaggio del Vangelo rivolto agli italiani. Voi potete essere salvati ora con un atto di fede personale in Cristo Gesù. Di questo Evangelo, come Paolo, io non mi vergogno, perché l'ho ricevuto nel mese di maggio del 1964, diventando figlio di Dio e certo della salvezza della mia anima. Io sono dunque uno degli italiani che hanno letto e ricevuto la lettera che Dio ha mandato in Italia. In questo modo ho onorato e onoro Dio in Cristo Gesù, oltre che onorare il popolo italiano. Vuoi farlo anche tu? Ottobre 2005, Ellero.